Hey, questo è per chi come me se va a letto alle 3 poi finisce che dormi alle 6. Là come tu ci sei? Nah, non mi pare, neanche lo vorrei. Quindi adesso scrivi sul giornale che cerchi il talento ma che io non ce l'ho. Dai, che fumare è tutto quello che c'ho. Dai, e bestemmiare tutto quello che so. Ma non è così. Non dormo da 3 giorni, ho scarpe e faccia sudice. Mi fanno sedere davanti al giudice. Ti vedo sorridere, che pensi alle menzogne da scrivere. Questo mi dà le prove che non hai sogni da vivere. No, che non mi accontento, spacco il tempo perché mi sto accorgendo che qua ogni giorno se ne va col vento. Scrivi su quel quadernino per restare vivo. Gli infami come te sono il motivo per il quale rimo. Il rispetto sì da priori, non solo i migliori. Non te l'hanno insegnato i tuoi genitori, che le cose dette in faccia sono meglio vieni fuori, che facciamo bene ai cuori, non siamo intrattenitori. Domani a chi toccherà? Non lo sai nemmeno te. Non scrivi le colpe ma crocifiggi il colpevole. Non ci fai preoccupare, siamo così davvero, meno male. Ti dovresti vergognare. No comment. Sta con la tua penna, non mi sfiori. Scrivi merda quali notizioni. Guardati in che condizioni. Prigioniero anche delle tue stesse convinzioni. Quanto sei ridicolo. Fare l'infame per qualche spicciolo. Mandarci al patibolo. Quale minaccia fra sei uno spicciolo. Guarda che faccia, sembra che ti hanno rubato il pranzo da piccolo. Il cronista che mi ha detto sei un tronista. Si aspettava un pezzo anni 90 rap con la corista. Vecchio anacronista, non rispetto la tua risma. Quella dei falliti accaniti con chi è protagonista. Fra quando arrivo al party, se a casa rintronati, per poi mettere agli atti tutti i fatti di quelli importanti. Ma occhio di lungarti, che possono silurarti. Se il boss fa dei figuranti, da un boss solo guardi gli altri. Bucanti ma dagli spalti, perché la tua penna è innocua. Io so i parti sopra i palchi e la gente c'ha la pelle d'oca. Scrivi che me della Lega, che si vende tanta roba. Ma da qua su non leggo niente, sto solo in volo d'alta quota. Fra domani a chi toccherà? Non lo sai nemmeno te. Ma scrivi le colpe ma crocifiggi il colpevole.